Melanzane sott'olio, un audio racconto con Peppe Nastro, di e con Claudio Metallo, in attesa del suo nuovo romanzo Calypso Hotel, in uscita per Marotta e Cafiero nel giugno 2025. Avevamo finito di suonare in uno di quegli splendidi festival autogestiti, auto-organizzati e autofinanziati che si svolgono spesso nell'estate calabrese, da Ioggi a Cleto e nel resto della regione. La serata era andata bene, ma io non avevo voglia di andare a dormire. La Boom Boom United, la band, si era ritirata nell'albergo a fumarsi qualche spinello. Io, come al solito, avevo bevuto un po' troppo e volevo farmi passare le coliche incespate su per il naso. E Steia, la cantante, s'era abbastanza incazzata per questo. Eppure la mia chitarra aveva fatto il suo lavoro fino alla conclusione dei bis. Comunque, per levare da mezzo, avevo deciso di rimanere a bere un bicchiere nel centro dell'abitato. Non c'era rimasto quasi nessuno in giro e mi ero seduto al bancone di uno di quei vecchi bar di paese, dove ancora è quasi tutto in legno. Il vino viene servito dalle botti in caraffe di vetro e i bicchieri sono quelli da un quarto, stretti sotto e larghi sopra. Amo questo genere di posti. Non sono come quelli che hanno preso in gestione figli, cugini, nipoti e che hanno trasformato il lounge bar con luci flu e fanno la margarita blu nei bicchieri del martini e poi non sanno neanche cos'è un boulevardier. Per preparare un boulevardier avremo bisogno di una generosa porzione di whisky americano, poi del bitter rosso e del vermouth dolce. Andremo a versare tutti gli ingredienti in un mixing glass ben freddo, mescoleremo bene con cubetti e filtreremo il tutto in un bicchiere con ghiaccio. Finiremo il drink con una spruzzata di oli essenziali di buccia di arancia. Appena appoggiati i gomiti sul bancone, il barista si mosse verso di me. Era un uomo tozzo, che doveva avere un passato ma anche un presente come zappatore e coltivatore della sua terra. I capelli erano neri e fitti, le braccia grosse e le mani callose. Aveva una faccia bonaria, ma la tranquillità di uno che avrebbe potuto sradicare una quercia con due strattoni. Non era grasso, ma aveva la tipica pancia da bevitore di vino contenuta in una bella camicia color fumo. «Hai la faccia di uno che beve», mi disse. «E tu di uno che serve da bere», risposi. «Qua usiamo scolarci un bicchierino d'olio prima di provare il vino. Sai a cosa serve? L'olio rimane a galla nello stomaco e l'alcol rimane sotto e così eviti di sentirti male. Però non voglio bere dell'olio. Mi piacerebbe avere un bicchiere di vino». Io non forzo mai un cliente. Tagliò una fetta di pane e ci buttò sopra delle melanzane sott'olio prese da un boccaccio aperto sul bancone. «Queste devi provarle però». «C'è l'equivalente del cicchetto di olio che dicevi», replicai. «Ma io non rifiuto mai una melanzana, specie se sott'olio». Addentai lo spuntino. «Spaccano». Mi versò un bicchiere di vino e fece lo stesso per sé. Brindammo e buttammo giù. Me ne versò un altro e mi preparò un'altra fetta di pane e melanzane. Non avevo mangiato nulla, tranne un panino schifoso prima del concerto, e mi ero innaffiato di alcol, cosa che stavo continuando a fare, tra l'altro. Già al primo morso il mio stomaco stava ricevendo diversi benefici dalle melanzane e dall'olio in cui erano immerse. Un vecchio telefono nero con la ghiera tonda, poggiato all'estremità opposta a dove stavo seduto io, squillò. Quel bar era rimasto da almeno 30 anni prima. «Pronto?» La voce del barista era ferma, metteva quasi paura. «Sono qui». Non so se qualcun altro dall'altra parte rispose qualcosa. Mi guardai attorno. Il bar si era completamente svuotato. Divorai altre tre forchettate dal boccaccio. Che diavolo ci metteva per farle così buone? Quando ebbi finito, mi alzai. «Dove vai?» «A fumare». «Ma puoi farlo qui? Siamo solo io e te?» Mi rimisi a sedere e accesi una sigaretta. Non finì di dare la prima boccata che entrarono due tizi. Mi ignorarono completamente e la cosa mi fece piacere. E si diressero verso il barista, che era in piedi sulle sue due gambe. Sembrava una quercia secolare della Sila. Li guardò attraversare il locale, asciugando un bicchiere con uno straccio logoro. Non gli tolse gli occhi di dosso, così come loro con lui. «Siete voi Ernesto Giuliano?» gracchiò uno. «Che vi servo?» «Niente, lo sai che dobbiamo fare. Bevetevi prima un bicchiere e mangiatevi due melanzane sott'olio». I due si guardarono. «Fate come se fosse un ultimo desiderio», aggiunse il barista. Si sedettero. Il tipo portò i due bicchieri e coprì due fette di pane con il companatico. Gli uomini mangiarono emettendo qualche verso di approvazione. Fecero un brindisi con i bicchieri e li scolarono. Il telefono in fondo al bancone squillò di nuovo. L'uomo delle melanzane andò a rispondere. Gli altri, compreso io, lo seguimmo con lo sguardo. «Pronto?» «È per voi», Uno dei due prese la cornetta e disse una serie di sì, tutti in sequenza. Poi buttò giù. Fece un cenno all'altro uomo. Quello si alzò, si rivolse al barista. «Ce l'hai un boccaccio di queste melanzane?» «Sicuro!» Ne tirò fuori uno dal sotto al bancone. I due lo raccattarono e uscirono così come erano entrati. L'uomo mi guardò, aprì altre melanzane e ci farci due fette di pane. Riempì una caraffa di vino e me la portò. Mangiammo il pane e scolammo il vino in silenzio. Dopo un po' decisi di andare via. «Quanto ti devo?» «Niente, già è tanto che stasera me la sono cavata con una melanzana.»